raduni in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già raduni in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tondo, tondo, donne, via, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuno toccherà. Finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà. Il più bello con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già raduni in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. Serra, serra con la bionda, con la bruna, va qua e là, con la rossa.